Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. E eccoci, 16:32 minuti, Luca Tremolada, oggi è la giornata, il momento, è l'ora, è il quarto d'ora e 20 minuti di Sandro Manciaterra, buongiorno. Buongiorno a tutti. Il titolo è La salute inizia dalla piastrella, cioè? Cioè ci eravamo sempre sbagliati, la saggezza popolare che dice no, la salute inizia a tavola. Beh, non è vero, no. La salute inizia dalla piastrella. Anche magari. Magari anche, però no. Insomma, cioè... prima che sulla tavola è proprio lì. Lì, su quella mattonella. Noi cosa abbiamo fatto? Siamo andati a vedere le piastrelle intelligenti, le piastrelle più tecnologicamente avanzate e vi raccontiamo anche uno dei distretti più noti dell'Italia, più in crisi certo. Da un certo punto di vista, cioè emblema un po' di quello che sta succedendo nel nostro paese. Ma prima le news. Cisco accelera internet. La multinazionale californiana ha progettato un nuovo sistema di routing che potrebbe rivoluzionare il sistema di collegamenti internet. Denominato CRS3, il nuovo router promette una capacità di trasmissione 12 volte superiore rispetto ai più potenti network in commercio. La nuova tecnologia sarà disponibile entro pochi mesi, a un prezzo di $99. Accordo tra il Ministero dei Beni Culturali italiano e Google per la digitalizzazione di una parte dei volumi conservati nelle due biblioteche nazionali di Roma e Firenze. L'intesa prevede la digitalizzazione e messa in rete di circa 1 milione di volumi. Nei prossimi 2 anni si completerà la catalogazione dei volumi scelti, che saranno digitalizzati da Google e successivamente messi online. Il costo della digitalizzazione, invece, sarà a carico di Google. La Cina ha firmato l'accordo di Copenaghen sul clima, raggiunto nel dicembre scorso. Anche l'India ha firmato il documento oggi, seguendo Indonesia, Brasile, Sudafrica e Messico. Fra i grandi produttori di CO2 manca solo l'adesione della Russia. L'accordo prevede il limite di 2 gradi all'aumento della temperatura media della Terra e la creazione di un fondo di $30 miliardi l'anno nel 2010-2013 e di $100 miliardi l'anno nel 2012-2020. Insomma, come avete sentito, noi anche quando si chiude Copenaghen continuiamo a seguirla per poi vedere che cosa succede dopo questi grandi eventi. Ma noi colleghiamoci direttamente con Franco Manfredini, presidente e amministratore delegato della Casalgrande Padana di Reggio Emilia, quindi parliamo del distretto della Piastrella. Insomma. Certamente. Buongiorno. Buongiorno. Come sta? Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Allora, noi racconteremo di questa nuovissima piastrella antibatterica. Che insomma, BIOS. Appunto, lei ci deve spiegare, Manfredini, perché questa rivoluzione, insomma, che la salute inizia dalla piastrella, perché voi è proprio da questo presupposto che siete partiti, no? Certo, la ceramica già è un rivestimento che ha in sé caratteristiche di igiene, no? Perché è inassorbente e non si altera con nessun agente esterno e noi abbiamo pensato appunto di aggiungere a queste qualità che sono proprie della ceramica una qualità in più, addirittura la caratteristica di essere antibatterica, cioè di far morire i batteri. Ecco, ma allora prima che ci spieghi meglio questa vostra invenzione, questo vostro brevetto che è nato in collaborazione con l'Università di Modena e di Reggio Emilia, quindi è il frutto di una ricerca esatto. Universitaria. Sono nanotecnologie comunque. Esatto, voi avete usato le nanotecnologie, ma sentiamo prima in questa scheda chi è Franco Manfredini. Via! Le nanotecnologie al servizio della ceramica, la ceramica al servizio della salute. È l'idea che ha mosso Franco Manfredini, 70 anni, presidente e amministratore delegato della Casalgrande Padana, azienda di Reggio Emilia con 270 milioni di fatturato, 2/3 dei quali all'estero e 580 dipendenti. Ne è nata BIOS, una linea di piastrelle in gres porcellanato che grazie a un processo di nanomodificazione assumono elevatissime proprietà antibatteriche. Le applicazioni sono evidenti: ospedali, istituti scolastici, mense, piscine e spogliatoi di impianti sportivi. Ovunque si richieda un alto grado di igiene. BIOS è il risultato di anni di ricerche in collaborazione con il Dipartimento di Microbiologia dell'Università di Modena e Reggio Emilia. D'altronde Manfredini non ha dubbi. L'innovazione vera, e non solo il design, è la cura migliore per superare le difficoltà dell'intero settore della ceramica. Ah, insomma, voi per superare appunto le difficoltà, poi vedremo in una successiva scheda i numeri di questa crisi che sta attraversando questo settore, siete andati a bussare all'università. Certo. Ma com'è noi... cosa vuol dire bussare all'università e soprattutto in un settore complicato come quello delle nanotecnologie, complicato non tanto per come materia ma per il fatto che si parla moltissimo di nanotecnologia, pochissimi hanno realmente realizzato delle soluzioni pronte per il mercato. Esatto, questa è un'applicazione pronta per il mercato, pronta per l'uso. Come vi è venuta l'idea? E poi come funziona sto BIOS? Che cosa ci mettete dentro? Funziona con facendo forza e riferimento a delle caratteristiche di certe sostanze. Posso dire, insomma, ecco, per avere un riferimento, no? È risaputo che gli utensili riposate in argento sono sempre state considerate anche nelle antichità come un oggetto, ecco, che è usato in cucina, ecco, nella manovrare gli alimenti, garantiva appunto l'antibattericità. Sì, cioè, ammazza i batteri, cioè l'argento. Ammazza i batteri, praticamente. Quindi, praticamente noi abbiamo sfruttato questo principio, ecco, applicandolo, e qui sta il difficile, applicandolo a un prodotto in ceramica che è destinato al rivestimento di pavimenti, di pareti, insomma. Quindi voi avete utilizzato l'argento come materiale. Insomma, questo base minerale, sì. Base minerale o base di metalli? Metallica, sì. Minerali metallici. Anche perché se fosse d'argento sarebbe costato un sacco di soldi. Cioè, quant'è che costano queste piastrelle? Ma guardi, il nostro ritrovato, la nostra applicazione, anche questo pregio, noi l'applichiamo su una grande varietà di nostre piastrelle con un supplemento moderato. Ecco, la piastrella praticamente con queste caratteristiche costa non più di un 20-30%. In più rispetto a una piastrella normale, alla che stessa piastrella non ha queste caratteristiche. Certo, quindi... Ecco, com'è una domanda, ma com'è che fate poi a venderle agli ospedali? Perché poi lì ci sono dei bandi, sempre abbastanza tosto. Noi stiamo lanciando questo prodotto in questo momento qui, proprio dopo averlo testato. Abbiamo già delle applicazioni, una prima applicazione è stata appunto fatta al centro di medicina, un centro di medicina a Modena, che è un polo di eccellenza mondiale nella coltivazione di cellule staminali. L'abbiamo testato e adesso stiamo lanciando il prodotto attraverso i nostri rivenditori, ma con promozioni fatte direttamente all'utente finale, cioè partendo dai progetti ospedalieri, perché sono i primi, ma naturalmente il prodotto può trovare applicazioni in tantissimi ambiti. Quindi Manfredini, se non ho capito male, voi vendete la stessa linea di piastrelle, lo stesso colore, lo stesso tipo, sì, di piastrella, esatto. In due opzioni, un optional, come esatto, una macchina esatto, col tetto apribile, sì. Adesso sto l'optional antibatterico. L'optional antibatterico, però esatto. Ci fa anche capire, insomma, i vantaggi per la salute, perché cioè, questa cosa qua è un modo di dire o funziona veramente? No, guardi, funziona veramente, questo non lo diciamo noi che siamo produttori di un prodotto per l'edilizia, ma appunto lei mi chiedeva prima perché la collaborazione con l'università, è proprio perché siamo di fronte a una problematica che ha bisogno di una base scientifica e di test appropriati, e questa collaborazione che noi abbiamo messo in campo con appunto l'Università di Bologna, di Modena, cioè il Dipartimento di Microbiologia dell'Università di Modena ci dà questa garanzia, insomma. Questa, ma io ho letto addirittura sono in grado di abbattere del 99,9% sì, ecco, i quattro principali ceppi batterici. Abbiamo citato nella nostra promozione appunto questo dato, perché se l'abbattimento raggiunge questi livelli, cioè quasi il 100%, questo insomma ce lo dimostrano naturalmente i tecnici, allora è efficace. Se avessimo un abbattimento, beh, certo, per dire minore, non valeva, inferiore 70-80%, certo, non varrebbe neanche la pena, perché non avrebbe nessuna efficacia. Ecco, okay, sul valere la pena, però insomma c'è da fare una riflessione, Sandro, anche perché adesso nella prossima scheda che sentiamo abbiamo un po' i numeri di questa crisi. Il fatto di dover investire dei soldi nell'antibatterico, nell'innovazione, in cercare di migliorare di migliorare il prodotto, di migliorare, appunto, il prodotto, non soltanto, insomma, il design, non soltanto il bello, non soltanto, vai, ma sai, nel caso della piastrella, anche, oddio, ma le caratteristiche della piastrella. Ma infatti, ma non facevate meglio a farle più belle, a farle, no? Cioè, no, perché il ricorso alle nanotecnologie? Facciamo anche quello. Facciamo, no, certo. Ecco, la ricerca, vede, e l'innovazione in questo campo, nel nostro settore, la ceramica, lei sa che è il prodotto più antico, il manufatto più antico dell'umanità, ma è anche un manufatto di grande attualità, perché è un manufatto ecologico. Sì, però la domanda è, mi perdoni, cioè, la domanda era, cioè, nel senso, adesso c'è una concorrenza che chiaramente è aumentata, internazionale, la globalizzazione, sì, sappiamo tutto, sì, la ricerca del bello e del design passa anche dai computer, perché le nanotecnologie? Ma perché si sfrutta naturalmente il prodotto di base, che è ceramica, e le sue caratteristiche. Ma siccome il prodotto ceramico è destinato, guarda, una volta la ceramica era destinata solo nel bagno, nella sala da bagno, poi al rivestimento, ma progressivamente noi, la storia della nostra industria manifatturiera ceramica, proprio questo merito di avere portato il prodotto ceramico non solo fuori dal bagno, in tutti gli ambienti della casa, ma in tutti gli altri settori del non residenziale, quindi tutte le edilizie ospedaliere, scuole, asili. Nova Lab 24. Allora, 16:46, Luca Tremolada, spiego una cosa anche a Sandro Mangiaterra. Cioè, io insisto molto sull'aspetto del bello e delle nanotecnologie, perché anche nel settore della moda, del tessile, insomma, a un certo punto è stata sventolata un po' questa bandiera del nanotech. Cioè, usciamo dalla crisi con tessuti nanotech, giornali pieni di tra l'altro ci ha raggiunto Pierangelo Soldavini, buongiorno. Buongiorno a tutti. No, ne abbiamo fatti di titoli sul nanotech, sulle nanotecnologie, certo, su Nova. Certo. Certo. La domanda è, ma poi alla fine della fiera si parla di piastrelle, si parla di vestiti, allora... Questo caso però c'è una vera modificazione nella fruizione del prodotto. In questo, no? Caso sì. Cioè, quindi è sicuramente le nuove moderne tecnologie, comprese le tecnologie, si inseriscono, come diceva Manfredini, in un settore molto antico, dove al massimo si è lavorato sul design. Bene, adesso si modificano le caratteristiche, le proprietà stesse del prodotto. È quello che si dice un grande valore aggiunto, no? Beh, sì, vediamo la scheda. Anche perché il settore è in crisi, e quindi bisogna rispondere a questa crisi. Vediamo di che crisi stiamo parlando. Ricavi in calo del 19%, export a meno 5%, nomi prestigiosi in crisi nera, migliaia di lavoratori in cassa integrazione. Sono le cifre del 2009, annus horribilis per il settore della ceramica, una delle punte di diamante del Made in Italy. È chiaro che in questo scenario vengono meno le risorse per la ricerca e l'innovazione, ma è altrettanto chiaro che chi non innova è perduto. Lo sa bene Franco Manfredini, che è anche presidente di Confindustria Ceramica. Così, crisi o non crisi, la sua Casal Grande Padana ha ulteriormente potenziato il centro ricerche e ha allacciato strettissimi rapporti con l'università. oltre a BIOS, la linea di piastrelle con poteri antibatterici, la Casalgrande Padana ha brevettato LOGES, un sistema di percorsi guida con pavimentazione speciale per i non vedenti. Non si tratta di inserirsi in nicchie di mercato, ma di inventare nuovi mercati grazie a nuovi prodotti. Allora, torniamo in studio. Tra l'altro noi continuiamo a vederle queste schede, ma non c'è niente da vedere, si ascoltano e basta. Manfredini, la domanda è: ma il ricorso al nanotech è strumentale o è sostanziale? No, è sostanziale. Sostanziale perché noi utilizziamo queste tecnologie e le applichiamo al nostro prodotto in vista di risultati specifici. Guardi, oltre al prodotto che è antibatterico, abbiamo messo a punto anche un prodotto che scioglie praticamente la molecola dello smog. Quindi la molecola dello smog viene sciolta e libera ossigeno, quindi riusciamo ad avere superfici anche per i vestimenti esterni degli edifici antismog sempre attraverso processi di nanomodificazione, se non nanomodificazioni, sì, sono ingredienti che vengono inseriti nel processo di produzione della... Brevemente, Manfredini, e questa LOGES, il percorso, siamo curiosi, il percorso per non vedenti. Ma guardi, il percorso per non vedenti appunto è una piastrella che è strutturata in modo che il non vedente segue un linguaggio in codice, no? Seguendo le strutture della piastrella. Quindi anche questo è un brevetto che non abbiamo fatto noi, ma ha portato avanti addirittura l'associazione dei non vedenti. Noi abbiamo applicato questo codice sulle nostre piastrelle e le stiamo praticamente andando in giro in tutta Italia e anche all'estero perché Manfredini si sente malissimo, credo che ci sia un problema nella comunicazione. Io nel frattempo la ringrazio e do la linea a Soldavini, che è qui peraltro. Io posso dire una cosa che trovo affascinante, sentire queste storie quando, come dire, continuano una tradizione italiana, come diceva prima Sandro Langiaterra, innestandoci una tecnologia, che è un po' il percorso che anche Nova vuole in qualche modo incentivare. Se domani il titolo è diverso, è Internet e Libertà, non parliamo esattamente di piastrelle, Internet è Libertà. Esatto, cioè il titolo anche visto tutti gli ultimi polemiche, dibattiti, sentenze, mica sentenze, bisogna controllare internet e così, diciamo la nostra. Tra l'altro domani se ne parla anche a Montecitorio in un convegno in cui proprio intervengono alcuni degli ospiti del dibattito su Nova. Noi abbiamo Lessig, abbiamo Zuckerman, Weinberger in copertina, che sostanzialmente dice una cosa per tutte: la libertà su internet ha più a che fare con la libertà che non con internet, per cui insomma, è connesso al discorso sulla libertà, sui diritti, e quindi internet è senz'altro il medium che finora ha permesso di mettere in contatto in maniera più efficace possibile gli individui. Dobbiamo proseguire su questa strada, che non vuol dire libertà di azione. Esatto, per no, assolutamente. Tra l'altro noi abbiamo dedicato molte puntate di Nova Lab a questo tema, troverete anche una serie di indirizzi internet e di software per tutelare la nostra privacy in rete, per proteggerci, per cercare di avanzare un nuovo tipo di cittadinanza, per cui insomma diamo anche dei consigli pratici per difenderci. Poi c'è tutto un aspetto invece di internet come portatore di democrazia, di dialogo, di conversazione, quindi di democrazia anche laddove non c'è esattamente, però insomma, è un dibattito che secondo noi è abbastanza poliedrico, insomma, che permette di avere più punti di vista. Si dice sempre a riga 4 degli articoli, mai come in questi momenti, mai come in questi giorni è di attualità, e mai come in questi giorni, soprattutto in Italia, è d'attualità un tema di questo tipo, certo, per cui certo. Insomma, siamo sul pezzo e sulla notizia. Io ringrazio Sandro Mangiaterra, grazie a tutti, buona giornata. Ringrazio Soldavini, ringrazio anche il nostro ospite. A domani alle 16:30.